C'è giunta notizia da parte del comune che nel prossimo comitato dell'ordine e della sicurezza provinciale, anche contro il parere del sindaco, il prefetto darà il via libera all'azione repressiva nei nostri confronti. Questa è una cosa che naturalmente non ci sorprende, anche se dopo 16 mesi insomma, la speranza di poter evitare questa cosa qui, insomma, c'era questa speranza. Niente, al momento la situazione è pressoché questa, c'è il prefetto che non ha nessuna intenzione di essere denunciato da parte dell'autorità giudiziaria per omissioni d'atti d'ufficio. A luglio è stata spedita dal magistrato Pollidori sia al questore che al prefetto una lettera minacciosa che richiedeva l'immediato intervento della forza pubblica. Quindi arrivate queste notizie al rientro agostano, sono due giorni che siamo in fibrillazione, abbiamo stabilito tutta una serie di contatti che, insomma, per cominciare a costruire un fronte che si opponga a questa eventualità brutale. E ieri abbiamo tenuto una riunione con tra noi abitanti qui della palazzina, successivamente con le associazioni del territorio, ieri abbiamo fatto il consiglio di action, quindi sono tre momenti di riflessione sul da farsi e ne abbiamo tirato fuori una sorta di strategia mediatica e politica per poter arrivare insomma all'11 settembre, che sembra la prima data disponibile per lo sgombero, ad avere dei risultati concreti. L'elemento conclusivo appunto sarà l'11, perché abbiamo chiesto, data la disponibilità del municipio e del comune, insomma, ad evitare questo sgombero e a sostenerci, insomma, i permessi per poter fare un'iniziativa popolare proprio nel centro del quartiere Tufello, quindi di occupare via Capraia per una giornata, dove insieme a band musicali come la Titu Banda oppure a gruppi di giocolieri e artisti di strada attraversare il quartiere con questo corteo colorato, festoso, ma che denunci questa eventualità dello sgombero, in modo da informare l'intera cittadinanza. Contemporaneamente verrà allestito un maxi schermo e proietteremo l'ultimo film documentario di Michael Moore in contemporanea poi con l'iniziativa di Global Beach al TPO di Bologna e se non erro anche in un centro sociale del sud. Quindi questa iniziativa in modo da sottolineare anche la questione del copyleft, che comunque per l'Astra e per le iniziative culturali che ha portato avanti è stata sempre centrale, e ci darà modo insomma di incontrare più cittadini possibile in modo da appunto costruire una difesa politica su questa esperienza. Non è che siamo molto ottimisti, perché dalle notizie che ci giungono insomma, e infatti ci stiamo preparando anche alla resistenza fattiva, perché non abbiamo nessuna intenzione che la dignità di 30 famiglie che abitano qui, piuttosto che le migliaia di cittadini che hanno attraversato questo posto per iniziative ludiche, culturali e anche molto spesso politiche, insomma, venga calpestata sotto silenzio. Insomma, abbiamo la forte intenzione di far succedere un bordello se loro pensano di risolvere la questione con un atto di forza. Quindi da qui nasce l'appello a tutte le realtà auto-organizzate della città di Roma, ma non solo la città di Roma, a costruire questo reticolo di iniziative, di campagna mass mediatica per contrastare questo sgombero. Insomma, se teniamo presente che è un decennio che a Roma non c'è uno sgombero violento di uno spazio occupato, insomma, l'ultima occasione tra l'altro riguardò sempre questo territorio con la vicenda dello sgombero della torre. Insomma, crediamo che sia molto importante per tutta la comunità, tutto il movimento romano darci una mano sostanzialmente. Insomma, abbiamo avuto infatti adesso contatti anche con per esempio Rifondazione Comunista piuttosto che DSD Zona, insomma, in modo da costruire un reticolo che possa portare il prefetto a valutare bene la situazione, insomma.